I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Dopo alcuni giorni di calma apparente, la questione greca è tornata a spaventare i mercati. Ieri si è avuta più di una conferma sul fatto che un accordo tra Atene e i creditori è difficile e è ancora lontano, e che probabilmente la riunione dell'Ecofin del 24 aprile, riunione che, ricordiamolo, dovrebbe mettere nero su bianco sia i nuovi impegni della Grecia per le sue riforme, sia i nuovi aiuti da parte dell'Europa e del Fondo Monetario, quella riunione non sarà affatto risolutiva. Per di più, da un paio di giorni si sussurra che Atene non riuscirebbe a restituire una tranche di 1 miliardo di euro al Fondo Monetario, rendendo così palese il suo default. Tutto ciò spiega come mai il rendimento dei titoli greci a 2 anni ieri abbia superato il 27%, ma soprattutto dice un'altra cosa, e cioè che un eventuale fallimento della Grecia o la sua uscita dall'euro non potrà non impattare sugli altri paesi dell'Unione Europea, specie sui più deboli come sono l'Italia e la Spagna, per esempio. A spaventare davvero, quindi, è l'effetto contagio della crisi greca, e il dubbio è se questo contagio potrà mettere a rischio la tenuta stessa dell'euro, oppure se, come molti pensano, sarà gestibile, sarà temporaneo, visto che l'Europa oggi è molto più solida che in passato, grazie anche agli interventi della Banca Centrale Europea. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Il caso Whirlpool Indesit continua a tenere alta l'attenzione non solo nei rapporti tra azienda, sindacati e governo, ma purtroppo, come spesso accade in Italia, rischia anche di diventare una facile occasione di polemica per chi considera le multinazionali come uno spietato predatore sempre pronto a spolpare aziende e mercati. È evidente che in un momento critico per il paese come questo, l'annuncio di 1.300 esuberi e della chiusura di 2 stabilimenti non può certamente essere preso alla leggera, ma è anche importante evitare pericolose generalizzazioni. La crisi Whirlpool è un caso aziendale settoriale, non di sistema. Dipingere l'azienda come il simbolo negativo della globalizzazione è un danno al paese e a quel recupero di fiducia che l'Italia sta faticosamente inseguendo. È bene ricordare che senza gli investimenti delle grandi imprese estere sarebbe stato impossibile trovare soluzione al futuro incerto dell'Ansaldo, di Breda, della Lucchini di Piombino e di tante altre aziende italiane che senza interventi di capitali esteri avrebbero avuto un futuro incerto. La complessità di un paese non si vede solo dai beni che produce, ma anche dai capitali che è capace di attrarre, e pur catturando una fetta modesta dei 1.400 miliardi di investimenti esteri globali, l'Italia deve molto alle multinazionali: 500 miliardi di fatturato aggregato, il 6% del PIL italiano, oltre 3 milioni di addetti che sono il 15% della forza lavoro complessiva, e soprattutto una spesa in ricerca e sviluppo che per addetto è di 2.200 euro contro i 500 euro delle imprese a controllo nazionale. Il mondo non ci aspetta ed è bene non attaccare il mondo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.